principi irreali. Sta leggenda a trama e ordito, va a miscando storia e infinito. Cula conta, cula canta, cula chigna e cula vanta. Sta leggenda è raccamata a spago d'oro su cusuta. Questi fila terzi e rari fanno corda pitta in ari. Tutte quante, tutte pari. Siamo di cantalumari. Tutte quante, tutte pari. La buttavo per romari. Tutte quante, tutte pari. Cento mano più bugari. Tutte quante, tutte pari. Uso destino, contrastare. C'era un re all'Olevanti, Anna sulla figlia via, era bella, Sicilia chiamata alla via, ma sta figlia sfortunata, e la sorte fu imbrogliata, che ha compiuti 15 anni, la sua terra vi allassa. Casa nunca un moscio sacro, se la vista e da manciato, era lugre levanti, lo terrore da soggenti. Che tu non perdi un giovane, dici figli e giovani.